allora, sei? Alziati Annibale, un produttore di vini nel nostro Popavese un po' particolare. Quindi qual è la tua particolarità? Beh, è un'agricoltura un po' estrema, è la ricerca estrema della genuinità o quantomeno di un rifiuto della tecnologia. Quindi, perché? Così, un po' per hobby, un po' per... perché sono sempre stato nel vino e credo che è il momento di ritornare ai sapori genuini, alle cose genuine, a quello che la terra può veramente dare senza esasperarla come tutte le cose. Tu credi che il rispetto del territorio, comunque la produzione in questo tipo di modo possa essere un elemento non proprio di contrapposizione ma forse anche di freno verso la trasformazione che abbiamo dei nostri territori, dei prodotti che consumiamo? Come no? È basilare insegnare ai nostri figli il rispetto della natura. Il rispetto della natura non vuol dire solo a parole però, vuol dire anche partire dalle cose semplici, dall'alimentazione e quindi tutto ciò che è naturale, ma anche il gusto. Cioè, capire, ad esempio bevendo un vino, il vino deve rispecchiare il luogo da dove arriva, cioè non puoi dire il vino è uguale per tutti, no? No, il vino è frutto di un luogo, di sentimenti, di tutta questa serie di tradizioni e noi abbiamo bisogno, soprattutto i nostri giovani, abbiamo bisogno di avere fiducia nel territorio dove vivono, perché devono capire che devono lasciare i loro figli, noi siamo solo di passaggio. Ti ringrazio.